e te. Sì, proprio io e te. Che parolone, vero? Io e te. Come la luna e il sole, come la notte e il giorno, come il dolce e l'amaro, come il nero e il bianco. Siamo proprio così.